ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo 19. La Via Crucis di Don Crescenzo. Uscendo dalla stanza dell'intendente di finanza, nell'anticamera, Don Crescenzo ebbe un barbaglio e vacillò. «Vi sentite male?» chiese premuroso l'usciere che lo conosceva. «No, niente, sono questi primi caldi di primavera», balbettò. E si passò una mano sulla fronte, che era coperta di gelide stille di sudore. Pure, per darsi un'aria disinvolta, cavò un sigaro e lo accese. «Buoni affari?» domandò l'usciere al tenitore del bancolotto, mentre costui smorzava accuratamente il fiammifero. «Così», disse l'altro, abbozzando un pallido sorriso. «Bisognerebbe sapere i numeri certi», mormorò l'usciere. «Don Crescenzo, vorremmo scialare alla faccia di questo infame governo», soggiunse assai sottovoce. «E che nessuno li sa, nessuno», esclamò l'altro, crollando il capo e andandosene. Ma quando fu sotto il portone e uscì all'aria aperta, ebbe un altro abbagliamento. Sentì ronzarsi il sangue nelle orecchie e fu per cadere. Dovette stare un minuto buono appoggiato allo stipite di pietra di quel portone del Palazzo San Giacomo, che dà su Toledo, vedendo passarsi vagamente innanzi la grande folla solita di quella strada, aumentata dalla prima giornata di primavera, che metteva fuori assai più gente del consueto. Vedeva una folla vaga, senza contorni precisi, nient'altro. Udiva come un gran clamore, senza distinguere né le parole né le voci. Solamente, mentre per istinto fumava, vedeva impresso nitidamente nella fantasia l'angolo di scrittoio dove l'intendente gli aveva mostrato il suo volto ormai freddo di severità. E udiva precisamente nelle orecchie le parole dell'intendente, squillanti con tanta limpidezza che quasi ferivano il senso dell'udito. L'intendente era stato durissimo. Non poteva più usare nessuna compiacenza verso il tenitore del bancolotto. Troppa ne aveva usata e non voleva apparir complice delle sue frodi. «Frodi», aveva detto e ripetuto, malgrado che avesse visto il pallore mortale di cui si era coperto il volto di Don Crescenzo, udendo le due sillabe crudeli. «Con lo Stato non si scherza. Lo Stato non fa credito». Ogni settimana ai versamenti di Don Crescenzo mancavano delle somme e ogni settimana bisognava invocare la indulgenza, la pazienza del Ministero delle Finanze a Roma perché aspettasse il pagamento del sempre più grande debito che Don Crescenzo veniva contraendo verso lo Stato ogni settimana. Ma lo Stato non è una banca che può accordare dilazione. Lo Stato fa aspettare ma non aspetta. E ogni volta che nominava lo Stato, questa parola gli riempiva severamente e sonoramente la bocca all'intendente ed egli aggrottava un poco le sopracciglia. Don Crescenzo ascoltava col capo chino, sussultando quando udiva nominare quell'ente misterioso a cui tutto si deve dare e che non dà nulla, che non ha cuore, che non ha visceri e che stende le mani aperte per prendere, per portar via. Ah, l'intendente era stato anche preciso nella sua crudeltà. Per mercoledì ci voleva il versamento totale di tutto quello che si sarebbe esatto come giocate e del debito arretrato. Se no, la catastrofe era inevitabile. Lo Stato incamerava la cauzione e dava querela per appropriazione indebita a Don Crescenzo. Costui aveva dato solo in un lamento alle ultime parole dell'intendente. «Perdete il denaro e andate in carcere», aveva conchiuso il degno funzionario. Don Crescenzo si era messo a pregare allora, aveva moglie e figli. Se era stato tanto ingenuo da far credito ai giocatori, doveva essere rovinato perciò? Gli dessero tempo, li avrebbe costretti a pagare, avrebbe ridato allo Stato fino all'ultimo centesimo. Era un galantuomo, infine, ingannato, assassinato. «Anche voi giocate e a credito», disse fieramente l'intendente. «Per rifarmi, eccellenza. Un onesto tenitore non gioca mai. Il lotto è una immoralità nei cittadini. Allora anche lo Stato è immorale. Lo Stato non può essere immorale. Ricordatevelo. Pensate a pagare. Io non posso fare più nulla per voi». Ancora aveva pregato, singhiozzando, che non lo gittassero alla prigione. Infine non si può voler la morte di un uomo quando si è uomini, quando si è cristiani. Ma già un paio di volte aveva fatto queste scene all'intendente ed era giunto a ottenerne un mese, 15 giorni di dilazione. Questa volta costui lo guardava così glacialmente che Don Crescenzo intese. Questa volta era finita davvero. Bisognava pagare o andare in carcere. Si licenziò, sentendo sempre quella parola mercoledì nel cervello. Era vero, aveva una giovane moglie e due figlioletti, una piccola famiglia, che con la larghezza bonaria del cuore napoletano egli aveva abituata a vivere grassamente, passando da un lauto pranzo festivo in casa a una lautissima scampagnata, celebrando con la pappatoria tutti i giorni festivi, scambiando regali di grossi gioielli d'oro, pagandosi delle carrozze da nolo, sempre col sottile desiderio di avere carrozza propria, comperando nuovi orecchini, nuovi anelli, continuamente alla moglie, regalandoli di quelle mantiglie scintillanti di giaietto che le borghesi nostre adorano. E tutto questo sempre vivendo del reddito del bancolotto, magari facendo qualche piccola speculazione sul capitale del governo, senza mai giocare, mai, mai. Ah, tempo passato, tempo di purezza, tempo di innocenza. Quando aveva giocato la prima volta? Lui che avrebbe dovuto salvarsi da quella lebbra, viverne solamente senza farsene attaccare, viverne come si vive bevendo il veleno senza morirne, mentre quel veleno sopra una ferita aperta uccide. Quando aveva giocato? Non si rammentava più. Vedeva una grande confusione in cui solo la parola mercoledì si disegnava con tanto vivido calore che pareva di fuoco, che pareva lo dovesse abbruciare. Tutta una confusione in cui la malattia mentale dei cabalisti che si affollavano nella sua bottega di gioco e le cui mani febbrili toccavano le sue comunicandogli la loro febbre, il cui denaro strappato Dio sa come, Dio sa dove, passando dalle loro mani alle sue, gli dava l'emozione di un dramma. Quella malattia mentale che ardeva il loro sangue, vecchi e giovani, poveri e ricchi, potenti e oscuri, si era trasfusa in lui, dalla presenza, dal contatto, dall'ambiente, filtrando per tutte le cose, emanando da tutte le persone e lentamente, lentamente gli si era diffusa per le vene, penetrando nella sua vita stessa. Prima, per l'ardore del guadagno, aveva fatto credito ai cabalisti, ritenendosi sempre il tanto per cento sulle loro giocate a credito, mentre chiedeva dilazioni per il suo debito al governo. Poi, come lo spostamento si veniva facendo sempre più grave, come il buco si faceva più profondo fino a diventare un precipizio, aveva cominciato a giocare anche lui, il disgraziato, tentando la sorte, con la illusione che la sorte lo favorisse, giocando a credito, con la fatale, con la tremenda illusione che potesse guadagnare una grande, una immensa somma. Ah, il disgraziato lo sapeva bene, lo sapeva, che non se ne pagavano di vincite, che raramente. Lo conosceva bene il terribile ingranaggio per cui le vincite sono la rarità quasi introvabile, sono la probabilità infinitesimale, sono proprio come l'incontro di un pianeta con un altro, ogni 200 o 300 anni nelle inflessibili leggi siderali. Lo sapeva bene che è il governo che guadagna sempre, sempre, che prende ogni anno 16 milioni alla città di Napoli, alla sola città di Napoli, e a tutta la patria italiana 65 milioni. Ma che importa? Seguitava a far credito ai cabalisti, compariva nelle loro riunioni, aveva tenuto mano al sequestro di Don Pasqualino, così accecato anch'esso. E il lusso borghese della sua casa era cresciuto. Sua moglie ingrassava, diventava rossa e lucida per aver troppo mangiato. Adesso era incinta di nuovo e portava una vestaglia di raso crema, tutta carica di merletti, e le sue mani grassocce, cariche di anelli, si incrociavano sulla cintura già arrotondata con quel movimento di pacifica soddisfazione delle donne tranquille nelle loro sensazioni. Oh, che disastro! Se mercoledì non portava il denaro all'intendente, lui, sua moglie, i figlioletti, quello che doveva nascere, tutti nella miseria e lui in carcere. Perduto tutto, tutto perduto, se mercoledì non pagava. Adesso, ogni volta che la parola mercoledì gli tornava in mente, al bel tenitore di bancolotto, dalla barba castana ben pettinata e dalle mani bianche, ogni volta un po' di sangue caldo gli correva alle guance smorte, sentiva bruciare i pomelli come da due punte di fuoco. Si era staccato dallo stipite del portone di San Giacomo e andava tra la folla, lasciandosi portare come un principio di vertigine che gli veniva dall'assorbimento sempre nella disperante idea. Ah, doveva fare qualcosa, lucrare del denaro, cercarne a chi glielo doveva dare, a chi ne aveva, perché il mercoledì non fosse la rovina sua e della sua famiglia. Dove andava ora? Bisognava cercare del denaro, ecco tutto, a ogni costo. Lo avrebbe strappato alle viscere dei suoi debitori. Non voleva morire per loro. Non voleva andare a San Francesco per quei quattro imbroglioni che lo avevano trascinato al male. Denaro, denaro, era quello che voleva. Era la sua sete, era la sua fame, era la sua anima, che solo quello chiedeva. Quello che solamente chiedeva il suo corpo. Denaro, o sarebbe morto. Ecco. Adesso, determinato a tutto, si era messo alla ricerca di qualche suo debitore. Ninetto Costa, l'avvocato Marzano, il dottor Colaneri e il dottor Trifari. Era notte adesso quando discese in strada. Un minuto, sbalordito, atterrato, pensò dove andare. E di nuovo, sospinto da uno stimolo tutto meccanico, prese la rincorsa e, attraversando Toledo, salì sino all'altezza della chiesa di San Michele, dove si ergeva bruno e alto il palazzo Rossi già Cavalcanti. In quel palazzo abitavano gli ultimi suoi debitori grossi, i più disperati di tutti, e per non cominciare con un malaugurio, egli se li era riservati per la sera. Ma non aveva trovato denaro in nessun posto, in nessuno. E adesso, per il naturale rimbalzo degli infelici che si ribellano alla infelicità, per quella forza di speranza che giammai non muore, adesso si metteva di nuovo a credere che Cesare Fragalà e il marchese Cavalcanti gli avrebbero dato del denaro in qualche modo piovuto dal cielo. Quando entrò nell'appartamento di Cesare Fragalà, introdotto dalla piccola Agnesina che era venuta ad aprire la porta portando una stearica mezza consunta, e guidato attraverso l'appartamento vuoto e scuro, egli si pentì subito di essere venuto. Marito, moglie e figlia, a una piccola tavola, sopra una tovaglia anche troppo corta per la tavola, pranzavano in silenzio, guardando ogni pezzettino di fegato fritto che si portavano alla bocca, per paura di lasciarne troppo poco agli altri due. E la bimba, specialmente, dal grosso appetito delle creature sane, misurava i bocconcini di pane per non mangiarne troppo. Cesare Fragalà, serio, con la linea del sorriso sparito per sempre dal suo volto, guardava la tovaglia, con le sopracciglia aggrottate. E la moglie, la buona Luisa, dai grandi occhi neri, sulla cui fronte aveva brillato la stella di diamante della madre felice, aveva l'aria dimessa e umile in un vestitino di lanetta. Quietamente, col suo occhio tranquillo, la bimba guardava il visitatore, come se capisse, come se aspettasse la domanda che egli doveva fare, serenamente, con la pazienza del martire. E dinanzi a quel dolce e pensoso occhio di fanciulletta, Don Crescenzo sentì legarsi la lingua e fu con un grande sforzo che balbettò: «Cesarino, ero venuto per quell'affare». Una vampa di fuoco arse le guance di Cesarino Fragalà. La moglie si arrestò dal mangiare e la bimba abbassò le palpebre, come se il colpo fosse ormai disceso sulla sua testa. «È difficile che ti possa servire, Crescenzo. Tu non sai in che imbarazzi ci troviamo», disse fiocamente Cesarino. «Lo so», disse l'altro, non sapendo frenare la sua emozione, «ma io sono in una situazione peggiore della tua». «Non credo», mormorò malinconicamente il negoziante che da pochi giorni aveva compita la sua liquidazione. «Non credo. Tu hai salvato l'onore, Cesarino, ma io non lo salvo. Che vuoi che ti dica? Non posso aggiungere altro». E non potendone più, sentendo sul suo volto lo sguardo pietoso della piccola Agnesina, egli si mise a piangere. Un po' di vento della sera, entrando da un balcone socchiuso, faceva vacillare la lampada a petrolio. Ed era un gruppo fantasticamente malinconico quello del marito, della moglie, della figliuola che, stretti fra loro infelicissimi, sogguardavano quell'infelicissimo che singhiozzava. «Non si potrebbe dargli qualche cosa, Luisa?» sussurrò timidamente Cesarino all'orecchio di sua moglie mentre l'altro si lamentava vagamente. «Che deve avere?» disse Luisa pensando. 500 lire. Erano di più, ho pagato una parte. Ed è debito di... gioco?» disse ella freddamente. «Sì». «Che diceva egli? Di onore? Egli ha fatto credito a noi e se non paga il governo lo mette in carcere. Ha figli? Sì. Ella sparve, di là. I due uomini si guardavano dolorosamente, mentre la ragazza li guardava or l'uno or l'altro, coi suoi occhi buoni e incoraggianti. Dopo un poco Luisa ritornò un po' più pallida. «Questa è l'ultima nostra carta da 100», disse, con la sua voce armoniosa. «Restano certi spiccioli per noi, ma per noi Dio provvede». «Dio provvede», ripetette la bimba, prendendo la carta da 100 dalle mani di sua madre e dandola a Don Crescenzo. Ah, in quel momento, di fronte a quella povera gente che contava i bocconi del suo pane e che si disfaceva dell'ultima sua moneta per aiutarlo, in quel momento, fra quegli sguardi dolci e tristi di gente rovinata che pure serbava la fede, serbava la pietà, egli si sentì infrangere il cuore e vacillò come se dovesse perdere conoscenza. Quando Don Crescenzo si trovò sotto il portone del Palazzo Rossi, dopo essere disceso in gran fretta per le scale, quasi temesse udire scoppiare alle sue spalle le grida strazianti della marchesina Cavalcanti che moriva, quando si fu trovato solo, fra la gente che andava e veniva da Toledo, in quella sera dolce di primavera, egli pensò a un tratto che tutto era finito. Le 100 lire che il suo pianto aveva strappato alla miseria dei Fragalà erano chiuse nel suo vuoto portafoglio e il portafoglio messo nella tasca del soprabito. E a quel posto egli sentiva come un calore crescente, poiché quella moneta era veramente l'ultima parola del destino. Non avrebbe trovato più niente, tutto era detto. La sua disperata volontà, la sua emozione sempre più forte, i suoi sforzi di una giornata correndo, parlando, narrando i suoi guai, piangendo e il gran terrore della rovina che gli sovrastava, non erano riusciti a togliere l'ultimo boccone di pane ai più innocenti fra i suoi debitori. 100 lire, una derisione, di fronte alla somma che egli doveva pagare il mercoledì infallibilmente. 100 lire, nient'altro, una goccia d'acqua nel deserto. E lo intendeva, poiché aveva esaurito un'immensa quantità di forza e di commozione, arrivando solo a strappare quelle lire alla onestà della famiglia Fragalà, poiché si sentiva fiacco, debole, esaurito. Era dunque quella l'ultima parola. Non vi erano altri denari. Non vi erano più denari per lui. Doveva considerarsi perduto. Perduto senza nessuna speranza di salvezza. Una nebbia, e forse erano lacrime, nuotava avanti ai suoi occhi. E la corrente della folla lo trascinava verso il basso di Toledo. Si lasciava trasportare, sentendosi in preda al destino, senza forza di resistenza, come una foglia secca travolta dal turbine. Non poteva fare più nulla, più nulla. Tutto era finito. Qualcun altro ancora gli doveva del denaro. Il barone La Marra, il magistrato Calandra, 2 o 3 altri, somme piccole. Ma egli non voleva neppure andarvi. Tutto era inutile. Tutto. Poiché dovunque egli era apparso, dovunque aveva portato la sua disperazione, egli aveva trovato il solco di un flagello uguale al suo. Il flagello del gioco che aveva messo fra la vergogna, la miseria e la morte tutti quanti come lui. Non osava entrare in casa sua, ora, malgrado che si facesse tardi. Era disceso per Santa Brigida e per via Molo alla Marina, dove abitava una di quelle alte e strette case in cui si penetra dagli oscuri vicoli di porto e che guardano il mare un po' scuro fra la dogana e i granili. E dalla via Marina, lungo la spiaggia dove erano ancorate e ammarrate le barche e le barcacce dei pescatori, egli guardava fra le 1000 finestre la finestrella illuminata dietro la quale sua moglie addormentava il suo bambino. Ma non osava rientrare, no. Tutto non era dunque finito? Sua moglie avrebbe letto la sentenza, la condanna sul suo volto ed egli non reggeva a questa idea. Una fiacchezza lo teneva, sempre più grande, spezzandogli le braccia e le gambe in quell'oscurità, in quel silenzio, dove solo le carrozzelle che portavano i viaggiatori ai treni partenti la sera, dove solo i tram che vanno ai comuni vesuviani mettevano ogni tanto una nota di vitalità nella bruna e larga via Marina. Non reggendosi, si era seduto sopra uno dei banchi della lunga e stretta Villa del Popolo, il giardino della povera gente che rasenta il mare, e di là Vedeva sempre, sempre più lontana, lontana come una stella, la finestrella illuminata della sua piccola casa. Come rientrare? Con qual coraggio portare le lacrime e la disperazione in quel pacifico, felice e piccolo ambiente? E quel bimbo innocente, l'altro che doveva nascere, e la madre così gloriosa di suo marito e del suo fanciulletto, doveva lui, in quella sera farli fremere di dolore e di onta? Ah, questo gli era insopportabile. Un castigo così grande, piombato sulla testa di tutti, come se fossero i maledetti, distruggendo la salute, la fortuna, l'onore, tutto. E in una successiva visione, egli riannodò tutte le fila di quel castigo, partendo da sé, a sé ritornando, andando dalla propria disperazione a quell'altrui, sempre guardando il breve faro luminoso dove la sua famiglia aspettava. E rivide la faccia pallida e smunta di Ninetto Costa, che partiva per un assai più lungo viaggio, certo, che quello di Roma, lasciando un nome di fallito e di suicida a sua madre. Rivide il corpo colpito di apoplessia dell'avvocato Marzano, le labbra farfuglianti e la miseria atroce, per cui non aveva neppure il denaro necessario per comperare dell'altro ghiaccio, mentre su di lui si aggravava un'accusa disonorevole, svergognante la sua canizia. E il professor Colaneri, scacciato dalle scuole, accusato di aver venduto la sua coscienza di maestro e, dopo aver buttato l'abito talare, costretto a rinnegare la religione dove era nato, di cui era stato sacerdote. E la tristezza del dottor Trifari, navigante in un battello di emigranti, senza un soldo, privo di tutto, mentre i due suoi vecchi genitori tornavano per aver pane a scavare l'arida terra. E la rassegnata dedizione di Cesare Fragalà, dedizione in cui era finito il nome dell'antichissima ditta in cui vi erano tutto un avvenire di miseria da affrontare. E infine, su tutto, la malattia di cui moriva la fanciulla Cavalcanti, mentre suo padre non aveva più un tozzo di pane da portare alla bocca. Tutti castigati, grandi e piccoli, nobili e plebei, innocenti e colpevoli. Ed egli insieme con loro, egli e la sua famiglia, castigati in tutto quello che avevano di più caro, la fortuna, la felicità della casa, l'onore. Una schiera di infelici, dove coloro che più piangevano erano i più innocenti, dove le piccole creature, dove le fanciulle, dove le donne scontavano gli errori degli uomini, dei vecchi, una schiera di miserabili. Tutto un castigo, tutta una punizione tremenda. Vale a dire la mano del Signore che si aggrava sul vizioso, sul colpevole, e lo colpisce sino alla settima generazione. Anzi, lo stesso vizio, la stessa colpa, quel gioco infame, quel gioco maledetto che si faceva strumento di punizione contro coloro che di questo vizio, di questa colpa, si erano fatti il loro idolo. Nella stessa passione, come tutte le altre che sono fuori della vita, fuori della realtà, nella passione stessa il germe, la semente della durissima penitenza. Colpiti dove avevano peccato, anzi dal peccato stesso. Tutto un lungo scoppio di pianto, da tutti gli occhi, dai più puri. Uno scoppio di singulti dalle più pure labbra. Una folla di povere creature oneste che si dibattono fra la fame e la morte, scontando gli errori altrui, dando ai colpevoli il rimorso di aver gettato le persone che più amavano in quell'immenso abisso. Non uno salvo, non uno. Di quelli che avevano dato la loro vita al gioco, all'infame gioco, al gioco sciagurato, divoratore di sangue e di denaro. Neppure lui salvo, neppure la sua famiglia, anche lui spezzato, anche i suoi figli ridotti certo a stendere la mano. Ah, troppo grande, insopportabile il castigo. Che aveva egli fatto per dover essere lì nella strada come un mendico che non osa rientrare al suo tugurio, non avendo potuto avere l'elemosina dal duro cuore degli uomini? Che aveva fatto per dover andare in carcere come un malfattore, perché sua moglie si vergognasse di appartenergli e i suoi figli non nominassero più il suo nome? Ah, era troppo. Che colpa aveva dunque commessa? Una coppia di guardie passò nella via Marina e interrogò con lo sguardo le oscurità della banchina e della villa del popolo. L'ombra era profonda. Le guardie non videro Don Crescenzo disteso sul sedile, ma egli, come per un rapido cambiamento di scena, si vide dinanzi agli occhi nel bancolotto suo al vicolo del nunzio le ardenti sere del venerdì e le affannose mattinate del sabato in cui i giocatori si affollavano ai tre sportelli del suo banco con gli occhi accesi di speranza e le mani tremanti di emozioni. E rivide i cartelloni a grandi numeri azzurri e rossi che incitavano i giocatori a portare nuovo denaro al lotto. Rivide i 100 avvisi dei giornali cabalistici e i motti: così mi vedrai, sarò la tua fortuna, il tesoro del popolo, l'infallibile, il segreto svelato, la ruota della fortuna. E le visite frequenti dell'assistito, e le fatali connivenze con tutti gli altri cabalisti, frati, spiritisti, matematici, che infiammavano i giocatori col loro strano gergo, con le loro strane imposture. Rivide le settimane di Natale, di Pasqua, in cui il gioco diventa furioso, feroce, tanto è il desiderio del popolo di entrare nel sempre sognato paese di Cuccagna, e si rivide sempre lui, contento di quelle illusioni che finivano in una dolorosa delusione, contento che quel miraggio accecasse i deboli, gli sciocchi, gli ammalati, i poveri, gli speranzosi, tutti quelli che desideravano il paese di Cuccagna, contento che tutti, tutti quanti fossero attaccati da tale lebbra, che niuno se ne salvasse. Contentissimo quando nelle grandi feste cresceva l'ardore e cresceva il gioco e cresceva il suo tanto per cento. Vide tutto, lucidamente, dalla sua persona che si curvava a scrivere sui registri le cifre maledette e le promesse fallaci, alle facce rosse o scialbe dei giocatori roventi di passione. E piegò il capo, abbattuto, sentendo di aver meritato il castigo egli stesso, la sua famiglia, fino alla settima generazione. Il gioco del lotto era un'infamia che conduceva alla malattia, alla miseria, alla prigione, a ogni disonore, alla morte. Ed egli aveva tenuto bottega di quell'infamia. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.